dat sole le caffè e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo sanno tutto quanto e invece ci aiuta ci buffano i caffè. Una tazzole le caffè, che sigaretta coppa per non pare, che stanno chi ne sbaglia fanno solo un brugno, salisciano, si vattono, si pigliano un caffè. E noi passiamo e vai, noi non potremmo supportare, e chi sti invece era una mano, salisciano, si vattono, si mangiano la città. E noi passiamo e vai, noi non potremmo supportare, e chi sti invece era una mano, salisciano, si vattono, si mangiano la città. Sulle le caffè acconcia bocca chi non può sapere, e noi ti rammannanza che rulure e panza, e invece ci aiuta a buffare i caffè. Una tazzole le caffè, che sigaretta coppa per non bere, saizza nei palazzi fanno cose pazze, ci girano, ci votano, ci vengono i tassi. E noi passiamo e vai, noi non potremmo supportare, e chi sti invece